facciamo a posto, dai, balliamo sul mondo. Mi porto le scarpe da città, cadremo ballando, però il mondo non si fermerà. Facciamo un fandango, là sotto qualcuno fischierà, balliamo su. Yeah! Ginger sono su una supernova sopra noi, chiudi gli occhi e tieni il tempo e sarà quasi fatta, dai, c'è chi vince, c'è chi perde, noi balliamo casomai, non avremo classe ma abbiamo gambe e fiato finché vuoi, ballando, ballando su, ballando su, mondo. Facendo, facendo, facendo un fan.